che non so suonare. Tre accordi, tre note che non vanno insieme. Ti ho detto non andartene, scomparsa tu. Basta bugia, basterebbe basarsi su. Sette mesi che fanno il compleanno oggi. Tutte offese che sommando si fanno ostilità. In teoria mi avresti avuto bel buco, ma in pratica mi è solo venduto. Tu, su un goccio di vita, avvolto in un cuore di carta, un fiore di sfida. Sei una morte precoce, un bambino vivace, un uomo che non è capace. Tenso come un uovo semiaperto, sto svernando, aspetto aprile. Sono tre giorni che conferiranno stima, basso svelto, beat, snello. Brillo, brindo, batterie usate per ogni brivido singolo. Dammi una mano che mi stringono, di verde menta spolverato i dipinti un castello. Con l'avviso di sfratto, scambio d'aderenze, colleziono grinze. Metti guanti per prendere pinze, per prendere granchi. Mangi qui, distratto, che non è il caso fare passi per scordarsi me il piano. Considerando mai l'oscenità delle tue apparizioni e la confusione che regna incontrastata sulle mie 10 dita. E fa sì che sette tasti non suonino fuori o no. Vuoi un po' che sto andandomene, non so se quel che ho meritato me lo. Sei un goccio di vita, avvolto in un cuore di carta, un fiore di sfida. Sei una morte precoce, un bambino vivace, un uomo che non è capace tu. Sei un goccio di vita, avvolto in un cuore di carta, un fiore di sfida. Sei una morte precoce, un bambino vivace, un uomo che non è capace. Vuoti d'aria, occhi chiusi, palpitazioni, mani per raccogliere precipitazioni. Lingua d'improvviso dentro, tu in un bagno, io il tuo pranzo. Nel mio letto c'è caldo e c'è tanto posto. Il mio abbraccio è largo e i miei occhi gonfi. La mia voce ti cerca, dove sei? Troppo bassa, non la senti e non torni. Troppo bassa, questa notte non dormi. Sfregamenti, profumi e riconoscimenti, scioglimenti, saliva sui carboni ardenti. Un'ombra ansiosa per assaporarti, un'ora più preziosa per riconquistarti. Tu sei un goccio di vita, avvolto in un cuore di carta, un fiore di sfida. Sei una morte precoce, un bambino vivace, un uomo che non è capace tu. Sei un goccio di vita, avvolto in un cuore di carta, un fiore di sfida. Sei una morte precoce, un bambino vivace, un uomo che non è capace. Sei un goccio di vita, avvolto in un cuore di carta, un fiore di sfida. Sei una morte precoce, un bambino vivace, un uomo che non è capace tu. Sei un goccio di vita, avvolto in un cuore di carta, un fiore di sfida. Sei una morte precoce, un bambino vivace, un uomo che non è capace. Sei un goccio di vita.